in collegamento telefonico con noi c'è Antonia Caruso. Anto, buon pomeriggio. Ciao Anto. Ciao. Ci senti? Sì, ti sentiamo bene. Innanzitutto bentornata qua a Radio Città Fuggico, ormai sei di casa però. Sì, mancavo da meno di 24 ore. È vero, è un record questo, Anto. Bello, domani ti chiamiamo di nuovo. Così, per parlare, non so, del tempo, però almeno tutti i giorni facciamo una rubrica con Anto, dai. Beh, ancora un po', cioè, c'è ancora un po' di freddo, nonostante sia iniziata la primavera, però c'è questo anticiclone che insomma ci sta facendo un po' disperare, direi. Oh, ne sa più di noi anche sul tempo, cioè incredibile. Sì, Anto è il nostro spirito guida, io lo dico sempre, quindi è importante ascoltare tutto ciò che dice Anto, anche le previsioni meteorologiche. Esatto. Soprattutto. E forse solo quelle. No. No, ma in realtà ovviamente non siamo qua per parlare di previsioni meteo, anche se ci piacerebbe, ma siamo qui per parlare del tuo libro, Anto, che hai fatto uscire con Eris Edizioni, LGBTQIA+, mantenere la complessità. Allora, ti volevo chiedere subito, tu presenti questo libro come un manuale non manuale per spiegare appunto la sigla. Quindi ti volevo chiedere proprio perché non hai voluto fare un manuale, qual era la tua intenzione, ecco? Ma io in realtà, cioè, io proprio non avevo un'intenzione, nel senso, sapevo qual era la mia intenzione negativa, perché comunque, vabbè, la collana Book Block è una collana di microsaggi, sono tutti più o meno della stessa lunghezza. Ogni volume è monografico, nel senso che affronta un tema diverso. Per cui c'è comunque, come dire, quello che ho scritto sta comunque all'interno di una collana che deve essere più o meno una sorta di introduzione a un determinato argomento. Il punto è che comunque parlare della popolazione, della cultura, della politica LGBTQIA+ è una cosa molto molto grande, cioè molto, forse più grande di me, e quindi non ho voluto mettermi in una posizione in cui dovevo spiegare, nel senso che mi sono messo in una posizione in cui ho detto la mia, ovviamente documentandomi, cioè nel senso non sono solo opinioni, certo. Anche perché è un punto di vista abbastanza, come dire, sì, preciso e situato, sì. Però non volevo mettermi nella posizione di dover spiegare una cosa che non riguarda solo me, ma riguarda tantissime, direi quasi miliardi di persone. Assolutamente, tra l'altro c'è il tuo punto di vista appunto personale, come dicevi adesso, in cui all'interno io ci metterei anche tantissima tua ironia, no? Sì, ma perché un po' perché volevo divertirmi un po' a scriverlo e poi perché penso che rende le cose un po' meno serie, può aiutare un po', non lo so, nel senso... Certo. Già la vita è amara, come si dice quando si prende il caffè con lo zucchero. Anto, io ti volevo fare una domanda rispetto anche all'inizio di questo libretto, in cui praticamente elenchi una serie di non di regole o comunque di, cioè, come se fosse, ora non mi ricordo se sono 6 punti o un tot di punti in cui spieghi che cos'è il libro, che cosa non è il libro, come va letto, come non va letto, e anche un po' a chi è indirizzato. E hai voglia di riportare magari anche in maniera più breve rispetto a quella che fai nel libro questi punti, che secondo me sono una base di partenza e una buona chiave di lettura per poi approcciare tutto il libretto? Sì, adesso nello specifico non me le ricordo tutti, però più o meno diciamo che appunto mi sono voluto allontanare dal fatto di essere mainstream sicuramente, o comunque quel tipo di politica riformista che non mi interessa, e quindi visto che comunque c'è molto in questo periodo, c'è molta attenzione, cioè la questione LGBT è entrata un po' nella, come dire, nella discussione pubblica in termini che molto, che meno, cioè anche un po' superficiali o comunque legati, che ne so, ad esempio a DDL Zan o alle rappresentazioni nelle serie TV. Il punto è che non è solo questo, e non è solo arcobaleni e unicorni, e soprattutto non è solo mercificazione e rainbow washing in un certo senso. Quindi quello che ho scritto è che non ci sarà del riformismo, quindi un atteggiamento che vuole una riforma, diciamo, giuridica, non ci sarà un'esaltazione appunto del rainbow washing o comunque della questione della sensibilizzazione, e soprattutto non vuole essere un manuale, diciamo, per gli alleati, perché l'alleate non può essere una, come dire, una lettera, e non ha un'identità politica, e eccetera. Certo, sì, tu dici proprio la A non sta per alleate. No. Senti Atto, ti volevo chiedere un'altra cosa invece. Il libro ha una forma un po', come dire, spezzettata, no? Un po' frammentaria, nel senso che ci sono tantissime citazioni, anche tanti aneddoti storici, racconti, eccetera. Quindi ti volevo chiedere un po' come hai messo i pezzi tutti insieme. Ma più o meno ho voluto seguire un po', fare una micro storia della Frocezza in Italia, perché non potevo farla a livello, come dire, in Occidente, ma credo che per capire bene il punto in cui siamo adesso dobbiamo capire come ci si è arrivati e quali sono stati, come dire, i punti di forza nel passato, quali sono stati i punti, diciamo, di rottura. Poi in realtà gli ultimi 20-30 anni li ho affrontati molto meno rispetto, diciamo, al periodo che va dagli anni 50 agli anni 70. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. No, quindi nel senso, facendo una specie di storia, poi spesso divagavo e ho messo degli aneddoti, ma perché appunto per una questione di fruizione e per una questione per rendere un po' più meno didascalico il testo. Poi ovviamente gli aneddoti lasciano un po' il tempo che trovano in termini di, come dire, analisi. Mm-hmm. Però sono divertenti, quindi ci stavano bene. Certo, no, come ad esempio quando citi, appunto, fai il racconto un po' della storia di Pasolini, e che lo prendi come esempio singolo, però ovviamente non vale poi per tutto ciò di cui parli, ecco. No, cioè penso di aver capito, sì, questo, giusto? Sì, vabbè, poi Pasolini è una figura talmente complessa che ci vorrebbe una vita per riuscire a parlarne adeguatamente. Ho preso lui perché comunque era, come dire, una persona, era una persona molto individuale in un certo senso. Mm-hmm. Ed era lontano dalla politica, da un certo tipo di politica, di movimento, eccetera, era molto individualista prima che di fatto poi iniziasse il periodo del fuori dei movimenti gay, anche perché l'altro giorno stavo sentendo questo podcast su Pasolini che ha fatto Walter City, in cui riportava un pezzo di una lettera che Pasolini aveva scritto a City, e penso che City è ancora vivo, forse avevano 20-30 anni di differenza, in cui lui diceva che in realtà si vergognava di essere gay. Quindi il fatto che poi sia diventato anche un'icona LGBT, non so come lui potrebbe prenderla, anche perché appunto ha vissuto in un'epoca precedente a un certo tipo di rivendicazioni, certo, politiche. Sì. Lui voleva fare tutt'altro, poi viveva la sua sessualità in un altro modo, cioè, l'ha tematizzata a livello artistico, ma fino a un certo punto. Sì, no, è vero. Bene, Anto, ti faccio l'ultima domanda, che è forse un po' una domanda di merda, però così ti volevo chiedere, secondo te, come dire, chi pensi che dovrebbe leggere il tuo libro? Non so, cioè nel senso spero più gente più numero di gente possibile. Cioè la collana è nata per affrontare determinati temi a chi magari non li conosce, e quindi un po' per chiunque, anche per questo un po' ho usato quel tono anche, certo, sì, divertente, perché cioè, per un po' avvicinare e non rendere pesante la nostra già pesante vita. Giusto, mi sembra giusto. Per non farti accusare di nazifemminismo dopo la stesura di questo libro. No, ma non c'è motivo di essere nazifemministe in certi casi. In certi casi. Questa specifica. Esatto. Sì, no, a volte sì, a volte no. Certo, cioè, dipende di cosa si parla. Sì. Bene, Ante, io ti ringrazio veramente per essere stata qui nostra ospite, averci parlato un po' del tuo libro.